Il mio capo mi dice attenzione, è importantissimo. Il mio capo mi chiama in riunione, è urgentissimo. Non capisce una mazza ma scrive 40 email, le cancello in 40 secondi, ne parliamo domani se vuoi. Il mio capo appare alla porta, è un incantesimo. Il mio capo non mi sopporta, son cinquantesimo. La classifica parla chiaro, non ha pietà. Non so vendere neanche la frutta, me la vedo un po' brutta. Sorridimi quando vuoi tu, che tutto passa lentamente, poi prossimamente cassiamo sempre di più. E se c'è pure tanta gente, com'è divertente. E chiamami quando vuoi tu, e specialmente fuori orario, no, nulla in contrario. E scrivi che non ne puoi più, io mi mortifico all'istante, guarda veramente. L'obiettivo del capo è ambizioso, vale moltissimo. Forse tutto sarebbe migliore se lo abolissimo. Non ho visto l'avviso in bacheca, perdonerai. Guardo solo i cartelli nel bagno, ma ho la pazienza di un ragno, lo sai. Il mio capo mi parla di squadra, è ferratissimo. Ma ora cambia lavoro per 4 denari in più, ma la squadra lo apprezza lo stesso, potremmo anche fare di più. Sorridimi quando vuoi tu, che tutto passa lentamente, poi prossimamente cassiamo sempre di più. E se c'è pure tanta gente, com'è divertente. E chiamami quando vuoi tu, e specialmente fuori orario, no, nulla in contrario. E scrivi che non ne puoi più, io mi mortifico all'istante, guarda veramente, veramente, veramente.